Buonasera, che bello vedervi così sparsi, io lo so perché vi siete messi così, non è per dare spazio, per non stare vicini vicini, ma è per dare l'impressione a me che c'è una grande folla, No è bello, anche che preghiamo anche per coloro che sono in ferie, che vanno, perché possano in ogni luogo sperimentare il Signore anche nelle ferie, soprattutto. Questa sera affronteremo un tema completamente nuovo e sconosciuto a noi. Parleremo della fede. Io devo dire che sono riconoscente a Dio. Sono riconoscente a Dio perché la mia gola, la mia voce è bassa. Così se voi chiudete gli occhi che viene il sonno, potete immaginare che è un altro predicatore e quindi vi svegliate, va bene? Ma è importante che noi vediamo, lo so che è un gioco di parole, l'importanza di attivare la fede in ogni situazione della nostra vita, perché la fede che noi abbiamo è la vita stessa. Noi viviamo al meglio le situazioni quando la fede vive dentro di noi e opera nelle situazioni, non la fede semplicemente di credere in Dio, ma la fede come è la base di ogni cosa. Io, per potermi spiegare bene, vi mostro una foto, una slide si dice, va bene? La gran parte di noi conoscono che cos'è questo, è il DNA, la forma del DNA, non tutti lo so, però è come dire, è il costruttore del nostro corpo. A secondo della sequenza degli elementi che ci sono là dentro, dall'ordine che il braccio si sviluppa al posto del braccio, che gli occhi al posto degli occhi, e che il nostro corpo è ben funzionante in tutto. Se questi elementi si imbrogliano un poco, e accadono cose strane ai nostri corpi. Ora, la fede per noi è come il DNA per il nostro corpo. E la cosa sorprendente è che, io lo dico in maniera semplicistica e logica, che chi ha studiato questo l'hanno scoperto solo da poco, voi immaginate, è formato il DNA da tre semplici elementi. Possiamo dire, è formato da un acido, una specie di acido, è formato da una specie di zucchero e da un fosfato, tre elementi che si incrociano fra di loro e noi abbiamo il corpo che noi abbiamo grazie alla funzionalità di questa. La stessa identica cosa è per la fede, perché anche la fede è formata da quanti elementi? Tanto possiamo fare le domande, siamo fra di noi, no? Tre, lo vogliamo leggere e conosciamo bene. Dove è scritto della fede? Ebrei? Non è che c'è già, no. Ebrei 11 verso 1. Benissimo, lo leggiamo insieme. Vedete quello che è scritto. Or, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. È come il DNA. Che cos'è la fede? È certezza. Che cos'è la fede? Speranza. Che cos'è la fede? Dimostrazione. tre elementi che se noi li mettiamo e li viviamo nella giusta posizione e nella giusta sequenza a secondo della situazione che noi viviamo, vediamo la nostra vita fiorire e gioire, perché per questo il Signore ha dato la sua vita per noi, affinché noi ricevessimo vita, affinché noi potessimo essere pieni della sua potenza, della sua grazia, della sua vita stessa. Se tutti e tre questi elementi sono nel giusto ordine, noi viviamo la vita di Dio, o almeno viviamo quello che è il progetto di Dio per te e per me. Ma alla base, ma il fondamento, ma sotto sotto quello che deve essere è la fede, è il credere, la certezza. Ecco, partiamo dalla certezza. La certezza. Com'è certezza? È un gioco di parole. La fede è certezza? Cioè, è certezza di cose che si sperano. Ma è certezza? È certezza di quello che non si vede, ma la fede, ecco perché è certezza, la fede vede quello che non c'è ancora. La fede vede quello che non c'è ancora, ma che Dio ha preparato per me, ma che Dio ha preparato per te, ma che Dio ha donato a te e ha donato a me, ma c'è. E la fede è quello, è la certezza di vedere questo. Ora, è come, per fare una similitudine, la fede è come il seme. Io ce l'ho qui nella prima pagina del mio iPad. Vedete che cosa c'è? Che cosa c'è? È un granello di senape. È un granello che ce l'ho da te, che talmente che si è schiacciato, che è diventato un granellone. Ma quando l'ho messo era un granellino di senape. Cioè, quando tu vedi un seme, in realtà è lo che voglio dire, pianti quel seme, in realtà che cosa vedi? Vedi il frutto. Io conosco uno in mezzo a noi che ha messo un seme di zucca e già mi faceva tutte le descrizioni di quanto doveva essere grande questa zucca, va bene? Ora, i fiori vengono, ma le zucche non tanto, però quello è un altro discorso. Ma quando tu metti un seme, quello che già immagini, quello che vedi, è il frutto. Ecco, la certezza, cioè il seme o la fede, ti dà la certezza di vedere quello che non c'è. Tu riesci a vedere quello che non c'è, e in quello puoi vedere che Dio è sempre all'opera in ogni situazione, anche quando non comprendi quelle situazioni, anche quando quelle situazioni vanno male, anche quando le cose non sono proprio secondo quello che noi desideriamo. Dio opera e opera per il meglio per noi. C'è una storiella, è una storiella, non è vera. C'era un re, vabbè, non si sa perché in ogni storia ci deve essere un re, ma comunque c'era un re. E questo re era un buon re, governava, si sforzava, faceva, amava molto anche la caccia, oltre che a governare bene. Amava molto andare a caccia e aveva un servo, un fedele servo, che gli era quasi amico questo servo, e che raccontava anche a questo servo tutte le cose che non andavano bene, come si sforzava lui per far andare bene avanti e che poi riusciva, e che era forte, riusciva a portare avanti ogni cosa. E il servo, che era un credente, gli testimoniava sempre dicendo: ma il Signore è buono in ogni situazione e Lui ha sempre ragione. Anche quando tu non lo comprendi, anche quando tu non vedi quello che desideri, quello che il Signore ha in serbo è buono per te. Un giorno, e questa era la continua testimonianza del servo al re. E secondo voi qual era la risposta del re? Ma vicitano me. Quante volte abbiamo sentito questi tipi di risposte? Un giorno il re prese con sé il servo e disse: andiamo a caccia, ho voglia di svagarmi, andiamo a caccia. Allora, e vanno a caccia in due. Che cosa succede? Che a un certo punto, senza che se ne accorgono, spunta un orso. Ora, il servo riesce ad ammazzare l'orso, però non prima che l'orso ha mozzato la mano del re. Allora, apriti cielo, quando sono tornati al castello, allora e questo è il tuo Dio, e dov'è che tu dici sempre la protezione, e tu dici che lui è sempre a fianco, e che lui che vede ogni cosa, dov'è il tuo Dio? E sapete che cosa fece? Era talmente tanto arrabbiato che chiamò le guardie e lo fece arrestare e disse: mettetelo nella prigione più buia, dandogli da mangiare il minimo indispensabile, non deve, solo che non muore. E così andava avanti. Un giorno, era un altro giorno, il re ebbe voglia di nuovo di andare a caccia. E questa volta andò con una bella squadra e si recò nel bosco per andare a caccia. Che cosa accadde? Che andarono talmente tanto lontano che furono presi. Oh, però vedi che la storiella vi prende, eh? Non è, state proprio tutti attenti. Non è quando parlo della fede, va bene, ho capito. La sorella prende, dice: ma dove vuole arrivare questo? Ma è reale quello che c'è dietro. E furono presi da una tribù selvaggia, furono catturati, furono portati nel loro accampamento, furono legati al palo e lì dovevano sacrificare al loro Dio. E allora incominciarono ad osservare uno ad uno, era una bella squadra di persone, e tutti quanti venivano sacrificati. Giunti al re, quando lo osservarono bene, presero e lo slegarono e lo mandarono via. Perché? Perché non potevano sacrificare un sacrificio non perfetto, impuro, gli mancava una mano. E il re tornò al castello pieno di riconoscenza, dice: allora veramente che Dio c'è, allora veramente che Dio opera, allora c'è Dio, eh? Quando abbiamo lo stomaco pieno c'è Dio, è vero? E fece liberare il suo servo, lo mandò a chiamare e gli raccontò tutto quello che era successo. E dice: no, io credo veramente che Dio opera. Però, c'è sempre il però, no? Però mi devi spiegare una cosa. Ma come mai questo Dio, che è tanto potente, è tanto buono, è tanto caritatevole, ha permesso che tu fossi arrestato e buttato nella prigione più buia? E il servo, sapete che cosa rispose? Rispose: ed era proprio la prigione il progetto di Dio per la mia salvezza. Perché se io non fossi stato in prigione, tu mi avresti portato a caccia con te, i selvaggi ci avrebbero catturato e mi avrebbero sacrificato. Quindi, morale della favola è: Dio ha la mano in ogni cosa. Attiva la tua fede, la tua certezza in Lui, perché questo fa operare e mettere in ordine, anche se non lo capisci, anche se non lo capisci, alimenta questi. Dice: ma come si fa ad alimentare la certezza in qualcosa che io non vedo e che voglio toccare e che voglio sentire? Come si fa? Sentite, la Bibbia lo dice molto semplicemente. La Bibbia dice confessa. Di nuovo ancora dice confessa. E poi dice e riconfessa. E dice continua a confessare. Questo è scritto in Romani al capitolo 8, il verso 28. È scritto: noi sappiamo che tutto coopera al bene per coloro che confidano nel Signore. Tutto coopera al bene. Perciò continua a confessare anche quando stai vivendo attualmente in questo periodo delle situazioni che non comprendi perché vanno così, e delle situazioni difficili e che vorresti che andassero in altra maniera. Continui a confessare la certezza che la mano di Dio è in quello, anche quando va contrario a quello che è il tuo desiderio, il nostro desiderio. E dice confessa, supplica è veramente la parola di Dio. Dice in Efesini pregando e supplicando in ogni tempo. Significa in ogni situazione, in ogni tempo significa in tutte le stagioni della tua vita, in ogni tempo significa tutto quello che stai vivendo e che stai affrontando. Continua a gridare e abbi quella certezza che il Signore a suo tempo e a suo modo opererà. E poi grida, la parola di Dio parla pure di gridare a Dio. Giacomo 5 dice: le vostre grida sono giunte fino a Lui e Lui risponde, fino al Signore risponde. Ecco che noi dobbiamo in un qualche modo sempre alimentare quella certezza, anche quando noi vacilliamo, anche quando è talmente difficile intorno a noi. Continua a confessare. Il Signore lo sa. Io lo so che non ti viene da dire grazie Signore, loda il nome tuo, ma di: il Signore lo sa. Questo è più semplice, e il Signore lo sa veramente, perché come per il re, così agisce anche per noi. Poi il secondo punto, il secondo aspetto è la speranza. Attivare la speranza, perché speranza è fede. In Romani 4 al verso 18 è scritto di Abramo. Chi è che si ricorda quel passo? Lo ricordate se io lo nomino? Sperando contro speranza. E insegnatemi come si fa a sperare contro speranza. Cioè, tradotto in altri termini, vuol dire quando non c'è più nessuna speranza, spera. Non è assurdo? Sperando contro speranza. È Abramo. Sperava contro speranza, vedeva un grande popolo davanti a lui. Lui e la moglie erano vecchi e erano sterili. Eppure ha sperato contro speranza. Questo è l'insegnamento per noi. Questo dice Ebrei capitolo 11 per noi. Andiamo in questo. Abramo credeva che aveva un grande popolo e che cosa vedeva? Che cosa vedeva davanti a sé? Sabbia. Vedeva la sabbia. E là vedeva che ogni granellino di sabbia incominciava a mettere le braccia, il DNA che incominciava a funzionare nel granellino di sabbia, le gambe, la testa e ogni cosa. Incredibile, perché questo è accaduto dopo. Non lo ha visto, ma è accaduto. Lui ha visto un figlio, semmai ha visto i nipoti e poi non ha visto più niente. Ma da lì è venuto fuori un grande popolo per la gloria di Dio, sperando contro speranza. Vi mostro una foto che mostra che cos'è la speranza. Che spera quella ragazza? Che non si rompe l'elastico, la fune. E che sta pensando in questo momento? Se ero io là, quello che vedevo che quando la corda incominciava a tendersi si spezzava e mi vedevo spiccicato per terra, sparso in mille pezzi. Quanti vedono quella? Lui, quella donna, sapete che cosa sta pensando? E che cosa sta vedendo in questo momento? I suoi amici per raccontargli come è andata, quello che ha sperimentato. Ha guardato al dopo. La speranza è il costruttore del futuro. Sperare vuol dire costruire il futuro, vedere il futuro in tutto quello che stiamo vivendo. Ma io sto vivendo una situazione disgraziata, brutta, di tristezza, di ansia. La speranza ti fa vedere la gioia di Dio. Perché? Perché questo anche dobbiamo stare attenti. Com'era il canto di prima? Mario, me lo vuoi ripetere? Lo hai riletto? Com'era? Che adesso non mi sovviene, ma che... Com'è l'ultimo? La possiamo? L'avete sentito? Non l'avete sentito? Avete sentito? L'abbiamo cantato. Com'è non l'avete sentito? E allora che hai cantato? Scusa. Ogni tua promessa, oh Dio, è sì e amen. Non ogni mia richiesta è sì e amen. Non ogni mio desiderio è sì e amen. Ma ogni promessa di Dio, perché è la promessa di Dio il meglio per me, il meglio per te, non quello a cui io aspiro, che può essere anche buono, ma può essere non buono per il tempo che lo desidero. La promessa di Dio, quello ha il sì e l'amen. Non ci dobbiamo ingannare, fratelli e sorelle. Noi pensiamo che le nostre richieste devono avere il sì e l'amen da Dio. È la sua promessa ed è secondo le sue promesse. Questo abbiamo confessato, cantato, perché è scritto nella parola di Dio. Quindi la promessa di Dio vede il positivo, vede il dopo, non devo guardare solo alle mie necessità, al mio desiderio, non è guardare a quello che io voglio. Alimenta la speranza, l'abbiamo detto, è guardare avanti, è guardare oltre quello che vedi. Abramo guardava oltre la sabbia che vedeva un popolo. E quando tu nella tua situazione guardi oltre e guardi e riconfermi la promessa di Dio, sappi che con certezza il Signore lo farà secondo la sua promessa, che è il bene per te al tempo giusto. Noi, come si dice oggi, i giovani d'oggi vogliono i soldi, come li vogliono? Com'è il detto? Maledetto è subito. Così si dice, è vero? Il nostro grido deve essere: Signore, secondo la tua promessa e secondo il tuo tempo, perché lì allora viene veramente la realizzazione della vita di Dio dentro di noi. Alimentare la speranza vuol dire anche semplicemente, in ogni situazione, vedere lo spiraglio che c'è. Lo spiraglio, l'opportunità. Perché in ogni situazione c'è uno spiraglio, c'è un'opportunità. Se noi guardiamo a quello, stiamo guardando alla promessa di Dio. Perché è Dio, non è il Dio dell'opportunità, è della doppia opportunità. Il Signore dà sempre a noi una doppia opportunità. Andiamo verso la conclusione. Il terzo aspetto è dimostrazione di cose che non si vedono. Come fai a dimostrare una cosa che... La dimostrazione è una cosa pratica. Come fai a dimostrare una cosa che non si vede? Beh, però noi lo facciamo ogni giorno. Quante volte noi ci sforziamo di dimostrare agli altri qualcosa che non si vede? Come lo facciamo? Lo facciamo con una illustrazione, facendo un esempio, facendo un facsimile. Dici, ma sai, ti ricordi di Tizekai, quello che ha vissuto così, così, così? Ecco, così è. Noi usiamo l'illustrazione, noi usiamo il racconto, noi usiamo l'esempio, il facsimile, per dimostrare quello che non si vede. Perché dimostrare vuol dire anche in questo caso vedere quello che Dio costruisce, quello che Dio fa, quello che Dio vuole fare e non quello che io desidero e quello a cui io aspiro. È il guardare di nuovo, la fede vede oltre, la fede agli occhiali, no, al binocolo, va bene? Guarda oltre, guarda più lontano. Vi mostro un'altra illustrazione. Che cos'è? Secondo voi che cos'è? Resti di una nave? Ma altri esempi? Non ditemi che non vedete niente. Rotto dei pali delle cose. Perché guardi a quello che c'è. Ma se tu guardassi in realtà questo, quello che questo era, sai che cosa vedresti? Questo. Sono delle palafitte. Sono delle palafitte. Noi guardiamo a quello che non c'è, ma sopra c'era una casa, c'è una casa, c'è una costruzione. E ancora oggi, e ci sono palafitte. Anche Modugno c'ha un campo con delle palafitte, incredibile. Che sono dell'epoca dei nostri antenati primitivi. Immaginate. e sopra lì si costruiva una casa. Perché? Perché quella casa ti difende dall'acqua, ti difende dagli animali, cioè le palafitte, scusa, ti difende da tutte queste cose. Ecco che devi guardare sopra e devi guardare oltre e devi guardare con gli occhi della fede, perché quello ti fa vedere quello che Dio ha preparato, che ha preparato per te. Allora, se io guardo con gli occhi della fede, sapete, guardo con la fede di Giovanni. Gesù si trova nella tomba, una pietra rotolata davanti. Maria Maddalena va alla tomba perché doveva preparare il corpo, e che cosa trova? Trova la pietra rotolata e dentro non c'era niente. Che cosa fa? Corre di corsa agli apostoli e dice, che cosa dice? Vi ricordate? Hanno portato via il corpo del Signore, lo hanno rubato, lo hanno tolto. Allora subito Pietro e Giovanni vanno per vedere com'era la situazione, e Giovanni, che era probabilmente più giovane, è corso più veloce ed è andato alla tomba e ha visto che non c'era niente. Poi è arrivato Pietro, è entrato dentro, e dopo di Pietro e ha visto che non c'era niente, dopo di Pietro è entrato anche Giovanni, e Giovanni è scritto letteralmente, e Giovanni vide delle fasce e credette. Vide le fasce e credette. Incredibile, le fasce. Cioè, Maria Maddalena, loro erano andate per vedere, vediamo dove l'hanno nascosto, vediamo dove l'hanno portato questo corpo, vediamo chi l'ha rubato, e hanno trovato delle fasce. E Giovanni ha creduto. Da quelle fasce ha creduto. È incredibile, cioè poteva credere come Maria Maddalena? No, le fasce erano la dimostrazione. Lui si è visto davanti quello che era successo con il Signore, la promessa che lui aveva fatto, che il terzo giorno sarebbe risorto. Lì ha creduto, quello è successo e quello lo ha fatto vincere. Credi in quelle che sono le promesse di Dio e lì vieni fuori, nutri questi elementi, nutri la certezza anche quando non c'è nessuna certezza. Continua a confessare, continua a gridare, continua a proclamare che la promessa di Dio è vera anche quando non lo vedi, e alimenta la speranza anche quando non c'è speranza, anche quando dici non c'è più niente da fare. Il Signore sa quello che è bene. Questo non vuol dire che il Signore farà come io desidero e come io voglio, ma secondo la sua promessa. E questo poi dimostra la grandezza di Dio nella nostra vita, in ogni vittoria. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo ringraziare il Signore. Proclamando e dicendo che noi siamo Suoi, siamo figli Suoi e vogliamo credere in ogni situazione. Se non ti rimane niente di questa predica, forse le immagini sì, va bene, la storiella rimane pure, va bene, ma per piacere fai rimanere questo dentro di te. Io voglio credere contro ogni evidenza, perché il mio Dio è più grande di quello che si vede. Non voglio avere la fede di Tommaso, che è la fede che poi non era fede, era constatazione e grazie. Una volta che l'hai vista, una volta che l'hai toccata, che fede è? Non è quella fede che dobbiamo rincorrere, ma quella di Giovanni. Signore, io voglio affidare a te ognuno di noi, sapendo questo, che tu per ognuno di noi, ma per ognuno, hai dato una promessa, hai fatto una promessa, hai mostrato la tua promessa in situazioni della propria vita o anche in chiamate, in quello che è l'appello tuo a ognuno di noi. Perciò io voglio chiedere, o Signore, come gli apostoli si sono visti persi e hanno detto: Signore, aumentaci la fede. Noi vogliamo chiedere, Signore, fa che noi abbiamo sempre, sempre il coraggio e la forza di proclamare che tu sei il Signore in ogni situazione.